ministro, tu, il re. Nomi che dissi, no, non è vero, non è vero, non è vero, nonna, non è vero. Sogno, delirio, è questo. Nomi tu, mia, struggermi a